известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Iranian demonstrations, beatings and a tireless call for new elections have filled the internet in the past week. Raw images, graphic and emotional, showing the resilience. È proprio vero che le cose cambiano e certe volte cambiano molto in fretta. Prendiamo l'Iran, i fatti di questi giorni all'indomani delle votazioni di venerdì scorso per eleggere il nuovo presidente della nazione. Io la chiamerei, lo intitolerei la grande titubanza, no? Come si è passati in tempi assai veloci dalla deplorazione, venendo dalla riprovazione, come si è arrivati all'attenzione, allo spirito dell'attenzione espresso da molti rappresentanti internazionali, quando si era partiti invece lancia in resta sulla base, sull'idea della mobilitazione. In sostanza il mondo ha guardato il voto in Iran, ha ascoltato il nome del vincitore, lo ha ascoltato anche con un certo sconcerto, sapere che Ahmadinejad è destinato a restare di nuovo per altri anni al posto di comando, ha sollevato dispetto, quando non sconforto, in parecchi scenari, e apparentemente le reazioni erano state estremamente decise, la chiamata ai brogli, la richiesta di nuovi conteggi, la verifica del reale spessore democratico di una votazione per una nomina così importante in una nazione così complessa, dove poi potere religioso e potere politico sono intrecciati ma al tempo stesso separati, corrono su un binario che di tanto in tanto poi, no, si raduna fino a diventare una monorotaia, ma poi si allarga di nuovo. Poi le cose però sono cambiate e il primo a dare un segnale di questo genere, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi diffusamente anche con tanti ospiti, con Negri, con Marcelletti, con quant'altro, il primo è stato Barack Obama, quando dal suo pulpito ha detto: ma veramente no, io seguo con attenzione, anche con una certa preoccupazione, quello che avviene in Iran, ma per quanto mi riguarda io sono il presidente 44, non il 43 degli Stati Uniti d'America, e non mi sento incaricato, non mi sento il mandato di diffondere la mia forma di democrazia nel mondo, non cambio i regimi per mandato presidenziale, e quindi per ora assisto, ripeto, con interesse, ma non vado oltre. L'Europa era partita con un piglio diverso sull'argomento Iran, c'era stato uno schieramento molto deciso, ma oggi, una settimana più tardi, meno di una settimana più tardi, si sono modificati gli atteggiamenti. Londra, ad esempio, deplora le violenze, particolarmente i morti, ha detto il ministro degli esteri britannico David Miliband in una intervista a Channel 4. Sottolinea che gli iraniani non possono comunque accusare gli Stati Uniti o la Gran Bretagna o altri paesi occidentali di voler scegliere il governo iraniano. Secondo Miliband, la crisi attuale in sostanza non rappresenta, attenzione, non rappresenta una scissione tra l'Iran e l'Ovest. Ci sono dibattiti profondi, dice, divisioni anche all'interno dell'Iran, ma insomma se ne può parlare, come ha detto Barack Obama, che ha detto: ma sì, adesso stiamo tutti rimpiangendo la mancata nomina, la mancata vittoria di Mousavi, ma insomma io non credo che fossero poi così diversi Ahmadinejad e Mousavi. Il rapporto con l'uno e con l'altro non è del tutto divaricato, e quindi andiamo avanti e stiamo a vedere. Questo è quello che, mentre le manifestazioni continuano a Teheran, anche oggi stanno andando in scena e già sono convocate anche per domani, che è venerdì, quindi giorno in un certo senso fatale per quegli scenari, tutto si sta ammorbidendo e alla chiamata all'allarme si sta sostituendo in un certo senso una chiamata di attenzione, che diciamo fa parte di rappresentazioni, scenari ben diversi. Il Consiglio dei Guardiani ha attaccato nel frattempo i nemici dell'Iran, che cercano di creare disordine perché sono arrabbiati per la grande partecipazione al voto di venerdì scorso. Questa è la teoria che viene presentata internamente da questa istituzione iraniana. Ha convocato, tra l'altro, per l'inizio settimana prossima, il Consiglio Guardiani ha convocato i quattro candidati, Ahmadinejad, Mousavi, Karroubi e Rezai, per esaminare i ricorsi presentati sui risultati. Sul fronte degli arresti sono circa 500 le persone finite in manette, alcuni notabili naturalmente della opposizione. E il primo ministro degli esteri della rivoluzione islamica è stato ad esempio arrestato oggi a Teheran, ne parla Al-Arabiya, che sfrutta una informazione anonima in relazione a questo, alla certificazione di questo arresto. Mousavi parteciperà sabato a un'altra grande marcia che già è annunciata tra le 16 e le 19 di sabato. Si svolgerà da piazza Enkelab fino a piazza Azadi a Teheran per protestare contro i risultati ufficiali delle elezioni che assegnano la vittoria al presidente uscente Ahmadinejad. Per oggi si è pensato di manifestare vestendo essenzialmente abiti neri in segno di lutto per le 7 persone uccise a colpi d'arma da fuoco nel primo giorno delle grandi manifestazioni, ovvero lunedì. Ci si è presentati in massa davanti alle Nazioni Unite, gli oppositori di Ahmadinejad si sono presentati in massa davanti alle Nazioni Unite, e questo è un messaggio molto chiaro: si chiede, si pretende, si invoca l'attenzione internazionale, ma come abbiamo detto all'iniziale interventismo è subentrata quella che abbiamo chiamato la titubanza, chiamatela prudenza, chiamatela comunque una politica del 2009 e non più una politica del 2008, allorché, come ricordiamo, gli interventismi soprattutto da parte di George W. Bush avevano una caratura diversa. 10 minuti fa è arrivata la notizia che la magistratura iraniana ha imposto il divieto di espatrio a 2 figli dell'ex presidente Rafsanjani. Secondo quanto riferisce l'agenzia Fars, vicino ai conservatori, si cita anche in questo caso una fonte, la solita fonte informata, che fa sapere che Fazeh e Mehdi Hashemi sono sotto inchiesta per aver avuto un ruolo nelle manifestazioni e negli incidenti di questi giorni dopo l'annuncio della rielezione del presidente Ahmadinejad. Quindi c'è anche un filone, come dire, di vendetta, di sistemazione dei conti, che corre parallelo in questo scenario si va complicando sempre più, e che continua a camminare sul filo di un grandissimo, naturalmente un grandissimo rischio, ovvero di una esplosione di violenza civile i cui confini, non solo i cui esiti, sono del tutto misteriosi, e di fronte alla quale poi quale potrebbe essere di nuovo l'atteggiamento occidentale, l'atteggiamento della comunità europea, partita così in modo risoluto e poi arretrata su posizioni più prudenti, e tanto più dell'America. È probabile che si continuerebbe ad assistere a un attendismo come quello che ormai sembra dominante. Infine, una questione legata alla questione atomica, che resta naturalmente uno dei nodi centrali dell'Iran di domani, probabilmente di Mahmoud Ahmadinejad. L'Iran vuole un'arma atomica per diventare una potenza nucleare e acquisire peso nella regione, lo dice il direttore generale della AIEA, che si chiama Mohamed El Baradei, in un'intervista alla BBC, nella quale ha puntato senza esitazioni l'indice contro le ambizioni di Teheran. Ha detto: la mia sensazione è che senza dubbio l'Iran voglia acquisire la tecnologia che, se lo volesse, gli permetterebbe di costruire un'arma atomica. Lo scopo è mandare un messaggio ai paesi vicini e al resto del mondo: non provocateci, perché se vogliamo possiamo avere la bomba. Tutto ciò naturalmente rientra poi negli squilibri e nelle turbulenze del Medio Oriente, fino naturalmente alla questione israelo-palestinese. Domani è un giorno chiave, già ragioniamo sull'idea di focalizzare quel che può, insomma, del nostro programma su ciò che accadrà nel giorno della preghiera a Teheran. Cercheremo di essere i più vicini e solleciti, anche complice il buon fuso orario, su quanto accadrà a Teheran al termine di questa settimana di memorabile turbolenza civile. Well, they're still racing down at the trestles, but that blood. E anche dalla Casa Bianca arrivano echi piuttosto coerenti a questo punto di vista. Il presidente Obama continua a esprimere preoccupazione sulla situazione in Iran, a rivolgere, come dire, una velata critica a Teheran affinché la situazione venga monitorata e gestita nel migliore dei modi. Lo ha detto di nuovo Robert Gibbs, che è il portavoce del presidente della Casa Bianca. Il regime iraniano, come sapete, ha accusato ieri gli Stati Uniti di intollerabili ingerenze, alzato la voce, insomma, negli affari interni iraniani. Che cosa volete? Le nostre elezioni sono nostre, le gestiamo e le supervisioniamo noi. Ha convocato l'ambasciatore svizzero a Teheran, che rappresenta gli interessi americani. Gibbs ha detto comunque il presidente continuerà a esprimere queste preoccupazioni, ma stando ben attento a non intromettersi negli affari interni iraniani. Questa è la linea della Casa Bianca, almeno a oggi, no? 18 giugno 2009. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. E allora, intanto un po' di notizie invece che arrivano dall'Oriente, ve ne porto intanto a Pechino. Adesso invece in Oriente ci sono notizie curiose, alcune a sfondo sportivo che meritano sicuramente di essere segnalate. La prima però che cito è serissima e riguarda le condizioni di salute ottima dell'economia cinese, che continua a stare benissimo, sicuramente molto meglio di quella italiana e più in generale europea, che possiamo dire al confronto appare piuttosto esangue. Ebbene, la Banca Mondiale ha rivisto le stime sull'economia cinese per il 2009, guarda caso al rialzo. A marzo erano usciti i dati che parlavano di un confortante, comunque visto il trend mondiale, di più 6,5% per quest'anno nell'economia, nel PIL cinese. Ebbene, il PIL salirà ancora di più, infatti la stima adesso è arrivata al 7,2%. Secondo me ci avviciniamo lentamente a quell'8, numero magico, che anche i nostri amici dalla Cina, in testa Saro Capozzo, pronosticano, profetizzano per questo 2009, comunque positivo per l'economia cinese. Dunque c'è Normal Man, no? Che è la presa in giro di Superman fatta da Lil Greg, che Dio sempre li protegga, mi raccomando, grande la nostra stima e rispetto. E però invece c'è, secondo me, Marchionne Man, che è il prossimo supereroe, perché ormai ha rotto i confini, ha sfondato, come dire, anche faranno nella... la copertina su Time prima o poi. È di quella che sto parlando, infatti. escono le anticipazioni in cui niente meno, insomma, soprattutto per un fedelissimo come me, hanno colpito nel cuore, perché la Fiat, sbarcata sul mercato americano acquistando la Chrysler, avrebbe un potenziale di innovazione per il mercato dell'automobile americana simile a quello della Apple per i computer e la telefonia mobile. Queste sono miele, insomma. Lo scrive appunto Time, il numero esce domani in edicola, ma nelle anticipazioni Time sosterrebbe che l'AD Sergio Marchionne avrebbe sfruttato Apple proprio come modello, cioè ci ha guardato a come Apple ha, come dire, dato lo scossone allo scatolone del mercato, no? e si è concentrato in particolar modo sul modo in cui Jobs avrebbe trasformato l'azienda, ricordate, a fine anni 90, in una icona globale del cool. E quindi siamo proprio qui nel cuore della cultura popolare, di cui, come dicevamo, ormai Marchionne a tutti gli effetti è un dio. Ci manca solo la Fiat Apple e siamo a posto. C'è anche quel look col golfetto a girocollo, secondo me, che paga, ti piace, che è un po' da pretastico, però intellettuale, molto molto bene. Allora, avevo promesso un paio di notizie sportive sempre dall'Oriente. Una riguarda un certo Oliver Kahn, te lo ricordi? Come il portierone della Germania, grandissimo portiere, anche se protagonista poi di una papera nella finale persa col Brasile 2-0 nel 2002. Ebbene, Kahn sbarca in Cina con un programma televisivo, un programma che andrà a scoprire portieri, talenti cinesi in porta. Si chiama il programma Non mollare mai, il principio di Kahn, quindi giocheranno anche un reality, sì, verranno trovati, scoperti i migliori giovani portieri cinesi. Kahn ha ricordato che al programma parteciperanno appunto un gruppo di giovani tra i 17 e i 24 anni e ci saranno anche due ragazze, quindi vedremo se verrà fuori il nuovo portiere della nazionale cinese grazie alle prodezze di Kahn, che evidentemente ha un suo seguito, una sua popolarità. Ti ricordi quando con una certa tristezza, riprovazione negli occhi, parlavamo di Gascogne che andava a giocare in Cina e tutti diciamo poveraccio, Gascogne ha fatto davvero una brutta chissà fine. Dove è finito, ma ormai invece andare in Cina a occuparsi di calcio è una... Quindi anche il grande portiere del Bayern Monaco e della Germania, protagonista sugli schermi in seconda serata cinesi. Mentre l'altra notizia viene direttamente dalle qualificazioni per i mondiali del 2010, non so se molti se ne sono accorti, però per la prima volta l'anno prossimo in Sudafrica, in una finale dei mondiali di calcio, saranno presenti le due Coree, il nord e il sud, in guerra da tantissimi anni, vero o presunta, insomma per la prima volta saranno insieme nella fase finale. Credo che l'Italia, scommetto che non saranno nello stesso girone. Non saranno nello stesso girone, direi di no. L'Italia credo che abbia anche il record di aver perso con entrambe, di essere stata eliminata da entrambe, il sud nel 2002, nel lontano 66, con la Corea del Nord, con il dentista che non ricordo mai come si chiamava. Si chiama Blatter. Certo che però poi a metterle nello stesso girone fai degli indici d'ascolto, insomma, a fare. Però potrebbe finire male una sfida nord-sud, che peraltro si sono già incontrate con un pareggio e una vittoria molto contestata dei coreani del sud nel girone di qualificazione per i mondiali. Ultima notizia rapidamente, ci dispiace perché noi siamo ammiratori soprattutto dal punto di vista professionale della capacità, della intensità sia come candidata che oggi come segretario di Stato di Hillary Clinton, che però è cascata e si è fratturata il gomito destro e la notizia arriva dal Dipartimento di Stato, viene citata da diversi media americani, precisa che la Clinton tornerà immediatamente nelle funzioni di capo della diplomazia americana nel giro di poche ore, entrando alla Casa Bianca nel tardo pomeriggio, neanche i gradini dove è inciampata, poi la conosce la Casa sulla Bianca, cera sarà quella cera. era casa sua, accidenti, com'è possibile? O gli hanno messo, dice, più cera, non è un'ipotesi. È stata portata al George Washington University, è tornata a casa, gli hanno sistemato momentaneamente le cose, farà un piccolo intervento chirurgico uscendo, naturalmente ha ringraziato come fanno sempre questi potentissimi, ha ringraziato i medici, ha detto sono i migliori del mondo, non vedo l'ora di farmi operare da loro. Boh, vabbè, via. Right? Questo insomma anche dalla densità di botti che sentite in sottofondo è Terminator, quello che sistemava, come dice peraltro anche il suo nome, sistemava le questioni, ma mi sa che Terminator anche un po' per l'età, peraltro è pure caduto dalla moto poco tempo fa, qualche colpo lo sta perdendo, almeno nella sua identità di tutti i giorni più modesta di ex culturista austriaco Arnold Schwarzenegger, governatore della California, uno stato nei guai, sull'orlo di una crisi di nervi e peggio ancora di una crisi economica finanziaria, di quelle che potrebbero essere addirittura, adesso faccio un po' di fantascienza, senza ritorno, insomma un ritorno lo dovranno trovare, ma dov'è? Io penso per esempio a quello studioso russo, no, che lo scorso inverno vaticinava, non so se vi ricordate anche sulla nostra televisione, la fine dell'America che affogava letteralmente in un mare di debiti. Noi siamo abituati a sapere che la California è lo stato laboratorio d'America, la situazione lì in questo momento è tutt'altro che rosea, i guai sono molto grossi. Oggi cercheremo anche di capire un po' perché, no? Noi siamo abituati a pensare alla California come alla, aperte virgolette, California chiuse virgolette, cioè la terra degli aranci, ma insomma la terra del sole, del futuro dorato, il lontano west, l'ultima frontiera prima ricominci l'acqua, no? Dell'oceano Pacifico. Le cose non vanno bene per niente, Schwarzenegger sta correndo ai ripari in modo draconiano, ma basterà, boh, non lo so, ce lo diranno oggi, ci aiuteranno a capirlo due ospiti che abbiamo con noi, ovvero in studio Umberto Bertelè, presidente del MIP, ci viene spesso a trovare, la Business School del Politecnico di Milano, tra l'altro autore autore del commento al saggio di David Rhodes e Daniel Sturter che si chiama Cogliete le opportunità che vi offre la recessione, inserito nel volume Oltre la crisi, che è in vendita dal 16 giugno, per due mesi sarà in vendita in edicola con Il Sole 24 Ore. E poi in linea abbiamo anche Federico Rampini, corrispondente della Cina di Repubblica, spesso anche lui ospite qui a Jefferson. Tra i suoi libri vi ricordo 100.000 punture di spillo, scritto con Carlo De Benedetti e con la partecipazione di Francesco Daveri. Federico, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora io comincerei da Bertelè, una domanda secca, insomma, questi hanno californiani hanno un deficit definito gigantesco e difficilmente recuperabile. Noi eravamo abituati a pensare una California diversa. Che è successo? Dove si è aperto questo buco sotto i piedi della California? Beh, io penso che Federico Rampini, che si è vissuto per un pezzo, poi potrà essere certo. Più chiaro su alcuni punti. Il quadro che mi sono costruito io è questo. Intanto siamo davanti a una crisi dell'entità Stato californiano, non a una crisi della California in generale. È chiaro che le imprese californiane, come le imprese di tutto il mondo, soffrono in questo momento. Il problema cos'è? Che dal momento che la struttura di tassazione statale, quindi dei proventi statali, è molto legata ai dividendi delle imprese californiane, certo, c'è stato un calo forte nelle entrate fiscali, le uscite viceversa sono, come in tutti i paesi, abbastanza prestabilite, cioè esistono poche voci discrezionali. Questo ha creato un grosso buco in uno Stato che aveva già dei debiti precedenti, ha spinto Schwarzenegger a chiedere con un referendum di andare a mutare la struttura fiscale e quindi andare a colpire probabilmente delle altre categorie oltre a quelle di persone più ricche che erano colpite. Su questo è stato sconfitto, su questo ha avviato un'operazione allora di pulizia drammatica dal punto di vista dell'uscita dei costi, andando a ridurre il livello di assistenza. Quindi pulizia dal basso, se possiamo dirlo, sì, in un certo senso. Cioè, non avendo i soldi addizionali provenienti da tasse, ha detto, certo, allora non vi do una serie di prestazioni, andando, certo, a togliere, certo, una parte di popolazione ampia. Ecco, Federico Rampini, io mi ricordo un libro che probabilmente ti sarà passato tra le mani diversi anni fa, era di un sociologo che andava all'epoca molto di moda in California, in genere in America, anche dalle parti nostre, si chiamava Mike Davis, e parlava in un libro intitolato Città di Quarzo di questo esperimento californiano che funzionava straordinariamente, soprattutto perché aveva come dire, adottato con la disinvoltura tipica del West il fattore immigrazione nel modo più funzionale possibile al dal sistema, ovvero delegandogli tutta una serie di compiti, di funzioni che non facevano altro, per essere un po' sintetici e massimalisti, che migliorare la vita degli altri, quelli che già c'erano, gli americani. Mi sembra di capire che oggi siano proprio costoro, cioè la parte bassa della California, anche sulla base di quanto ha detto Bertelleffen qui, che in realtà soffrono, ballano e sono il bersaglio di questo interventismo di Schwarzenegger, che poi funziona, funzionerà, che dici? È vero che la parte più povera della popolazione californiana, in particolar modo gli immigrati di recente generazione, sono le vittime prime di dei tagli di bilancio, soprattutto perché si tratta di tagli di spesa sociale, vengono tagliate i pagamenti alle scuole pubbliche, ai servizi sanitari di base, quelli gratuiti per il sono proprio i servizi sociali essenziali quelli che vengono colpiti da questi tagli pesantissimi di bilancio e quindi indubbiamente è la parte più debole della popolazione. Questo non significa però che il modello californiano come tale, cioè quando parliamo di modello californiano mi riferisco a quello che tu ricordavi poco fa, cioè il modello di società multietnica non è veramente in discussione in questo momento, tantomeno è in discussione la vitalità della California per il suo tessuto di imprese innovative, la Silicon Valley, la capacità di sfornare grandi cicli di invenzioni nuove, di rinnovamento tecnologico. In realtà quello che questa tremenda crisi fiscale che effettivamente fa tremare la California va ricondotta a un altro tipo di esperimento di cui la California fu pure la culla, perché la California è stato un laboratorio politico, sociale ed economico da tanti punti di vista non sempre, diciamo così, progressisti e di sinistra. La California nel 1979 vide la vittoria del famoso referendum antitasse, sì, certo, il primo di un'ondata di referendum che segnarono l'inizio della rivoluzione reaganiana di destra, della rivoluzione neoliberista. La vittoria di quel referendum, che si chiamava Proposition 13, proposta 13, ha posto dei vincoli alla gestione del bilancio che tuttora sono la causa della crisi attuale. Sostanzialmente due sono le caratteristiche. Uno è il divieto costituzionale di andare in deficit, per cui il bilancio che poi è stato imitato da altri stati, non è solo la California ad avere questo vincolo, che costringe nel caso che crollino le entrate fiscali per le ragioni che ricordava Bertelè, a ricorrere a dei marchingegni complicatissimi, tipo prendere in prestito dalla lotteria, ecco, delle cose di questo genere. L'altro limite è la necessità, in seno all'Assemblea legislativa californiana, di avere una maggioranza qualificata dei 2/3 per aumentare le tasse. Questo fa sì che esista sempre almeno una minoranza di blocco di repubblicani intransigenti che impediscono qualunque aumento delle tasse, quindi un'ulteriore rigidità. Questo ha portato al disastro attuale. Ecco, Bertrè, ma mi sembra di capire che concordate poi con Rampini sulla descrizione dello stato di cose, ma è possibile, faccio una domanda di base, ma è possibile distinguere così tra Stato, sia pure Stato inteso come Stato dell'Unione, e società nelle condizioni di salute? Cioè uno Stato che sta così male, proprio alla canna del gas, come sembra rappresentare lo stesso Schwarzenegger, e una società che invece parallelamente è come se vivesse, no, una condizione altra. Possiamo parlare in questi termini? Io ricordo che c'era una definizione dell'Italia che diceva: l'Italia è un paese povero fatta di gente ricca. Cioè in taluni casi non c'è la capacità di commisurare il contributo al bene pubblico a quelle che sono le disponibilità dei cittadini. Ecco, quando questi fenomeni avvengono poi può non succedere niente, per tanti anni non è che sia successo più di tanto, per un lungo periodo possono avvenire dei periodi di crisi estremamente forte. In Italia ne abbiamo visti vari nel nostro passato, quindi giocare sui bilanci pubblici e regalare in giro facendo ricca la gente però indebolendo lo Stato, adesso ci sorprende perché siamo in quello che è considerato una delle punte più avanzate del mondo, in un sistema, ricordiamo, in cui c'è un'attenzione però maggiore che da noi sulle responsabilità individuali delle singole entità Stato. Certo. No, vale a dire, California potrebbe ad esempio fare una serie di indebitamenti, eccetera, quello sempre che leggevo in giro, se lo dovesse fare senza però una garanzia federale, essendo già molto indebitata, andrebbe a pagare come un'impresa, certo, che certo, va abbastanza certo, male. Certo. Riprendiamo a parlarne con Rampini e Bertelè tra pochi istanti dopo le notizie del traffico. E ci sono notizie di proteste in un'America che ha ritrovato ben in modo maggiore che in passato il gusto per la partecipazione civile, proteste sia a Los Angeles, a proposito di California, che a Washington DC, di iraniani americani che cercano di tendere una mano, una rete ideale nei confronti di quanto avviene nelle strade di Teheran, quindi anche discrete e notate, soprattutto mediaticamente, proteste si stanno risvegliando anche negli Stati Uniti d'America. Ma torniamo a parlare della crisi della California, torniamo a chiamare in causa Federico Rampini e proviamo a fare un piccolo bilancio sul operato del nostro Terminator Schwarzenegger, insomma salito, no, alla ribalta, vi ricorderete, ci furono delle elezioni straordinarie a portarlo al governatorato dello Stato, poi una improvvisa popolarità, era arrivato come uno col mandato del Salvatore, in un certo senso quell'eroe che aveva incarnato sullo schermo si sperava riuscisse a portarlo, a farlo migrare anche nella realtà. Qual è il tuo giudizio sull'operato, soprattutto in base a queste ultime decisioni, a questo interventismo un po' sfrenato a cui sta dando, che ci sta mostrando in queste ultime settimane Schwarzenegger, Federico? Ma intanto va ricordato che Schwarzenegger arrivò al potere sull'onda di una crisi abbastanza simile a quella attuale, nel senso che c'era stata una paralisi decisionale. Il precedente governatore Gray Davis, democratico, era sembrato incapace di sbloccare il sistema politico locale, e quindi Schwarzenegger aveva cavalcato l'onda di una sorta di impeachment, perché era stato proprio destituito il governatore precedente anzitempo per consentire a Schwarzenegger di sostituirlo. Poi c'è stato un periodo iniziale di neanche tanto breve di luna di miele tra Schwarzenegger e i suoi cittadini, perché Schwarzenegger aveva dimostrato una certa duttilità politica prendendo le distanze dall'amministrazione Bush, pur essendo lui un repubblicano. Era stato giocava molto al bipartisan subito, certo. Sì, era stato attento a rappresentare bene gli umori dei californiani, per esempio si era smarcato dalle politiche di Bush sull'ambiente, visto che la California è una terra che ha una tradizione verde. Schwarzenegger aveva deciso ad esempio dei limiti alle emissioni di CO2, sostanzialmente in linea con il trattato di Kyoto. Quindi aveva fatto delle cose che gli erano sicuramente fruttate un aumento di popolarità, e poi è finito in un certo senso prima del suo stesso gioco, quello con cui lui aveva spodestato Gray Davis, cioè è rimasto anche lui invischiato in un sistema politico locale che non consente margini di manovra. Tutti ormai dicono che la California non ne uscirà senza una riforma costituzionale. Ecco, e questo è l'ultimo punto che mi piacerebbe toccare anche con Bertrè, cioè come finisce una catastrofe, tra virgolette, come questa? Come può finire? Qual è il punto di vista che le viene da suggerire? È veramente una caduta progressiva senza fine a cui si può mettere rimedio intervenendo addirittura a livello costituzionale, o ci sono altre procedure o altre traiettorie a cui pensare? Ma io, permette, lascerei queste risposte al mio interlocutore, che ricordo da lunghissimo tempo, da quando era vice direttore del Sole 24 certo. Ore, e che conosce bene questa realtà. Però il discorso che stiamo facendo, e mi richiamo un'altra cosa, il problema di aumentare il livello di tasse, che è un problema che sente Schwarzenegger adesso, sarà probabilmente un grosso problema di Obama nel prossimo futuro. Cioè, in questo periodo, sia la gestione Bush prima, sia la gestione Obama poi, ha portato a moltiplicare le spese complessive certo. del sistema. Siamo a una previsione di deficit, sommando il federale più lo statale, che potrebbe avvicinarsi al 100%, 90%, cioè cifre che erano considerate tipiche dell'Italia o del Belgio, certo. ma non degli Stati Uniti. Certo. Ci sarà un problema, io credo serio, non solo lì, di riequilibrio nei vari paesi. Ci sarà un problema di convincere le persone a contribuire a questo fenomeno. Ecco, e da questo punto di vista io credo che un problema tipicamente californiano poi possa essere visto anche come un problema federale. E d'altra parte, per esempio, una delle reazioni che ho visto al piano di intervento presentato ieri sulle correttive del sistema finanziario è quello di dire: c'è troppo Stato nell'economia. Per concludere, Rampini, telegraficamente siamo proprio in coda. Come finisce a tuo parere? Cioè, ci sarà una fragorosa caduta di Schwarzenegger? C'è un uomo della provvidenza, o, come accennavi prima, è questione di intervento radicale? Non c'è nessun uomo della provvidenza in vista per il momento. Altri sfidanti, come il sindaco di Los Angeles Villaraigosa, non mi sembrano in questo momento possedere un fascino carismatico così forte da risolvere la situazione con un colpo di reni, e quindi sarà un processo lungo, faticoso, doloroso, che non esclude affatto la caduta di Schwarzenegger, ma aveva ragione Bertelli a ricordare che poi la California, come sempre, è la punta certo. estrema di un problema più generale di crisi fiscale degli Stati Uniti, con cui Obama stesso si troverà alle prese. Grazie molto a Federico Rampini, grazie a Umberto Bertelè, questo doppio intervento sulla condizione della California, sull'orlo del crack, come viene descritta ormai generalmente dai media. È stato l'argomento principale di Jefferson 2, l'arte della svolta di oggi. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Filippo Aureggi a Milano. Vi do solo la mail per oggi: Jefferson 2 Radio è radio24.it. Replica a mezzanotte, diretta dopo le 4 qui su Radio 24. Ci sentiamo, grazie.